canto mio giunge sino a te. Nel silenzio della notte vieni amore a me. Freme il bosco frustrante sotto il fiore. Yeah.